ci sono tutti e due, ma è vero allora? È vero, ebbene sì, sono arrivati, malgrado tutto ce l'abbiamo. Come vi sentite? Ah, non c'è male, grazie. Sì. Sapete in cosa vi siete infilati? No, lo scopriremo, penso, solo vivendo. E si parla di musica coreutica. Bravissimo, ha detto bene? Si direbbe corale. Perché coreutico ha più a che vedere con diciamo, cominciamo subito. A dire, è la danza coreutica? Sì. Infatti c'è il liceo coreutico a Bologna. Esatto. Vedi? Dove danzano. Io ho sempre pensato che coreutico avesse a che fare con i cori. Pensa un po' che ignoranza coxica che ho io. Ma adesso la scioglieremo, Esatto. E parliamo di cori. E i nostri ospiti Silvia e Maurizio sono due direttori o maestri di coro, dico bene, certo, attivi qui sul territorio. Esatto. E ciascuno dei due poi, in realtà voi vi conoscete da tanto tempo, bene o male. Facendo questo lavoro ci si incontra. Com'è la scena dei cori a Bologna? Groovy. Ma tu ne sai qualcosa, vero? Io ne so qualcosa. Sei tu quello che ha contatti con i cori. L'ultima volta che li ho incontrati e che dirigevano i loro rispettivi cori, ho avuto questa pensata: perché non venite a Coxo Spaziale a raccontarci di come funzionano? Di cosa vi appassiona nel mondo dei cori? Sì, anche perché stando al pregiatissimo Stefano W. Pasquini, mio egregio co-conduttore, voi avreste anche due direzioni poeticamente distinte? Sì, se così vogliamo dire. Ci ha preso. Ci sono. Stefano. No, anche perché hanno anche due background diversi. Ah, giusto? Sì. Vogliamo esatto. andare a cominciare? Raccontateci i vostri background, da dove venite? Vai. Io da dove vengo? Allora, io sono chitarrista fondamentalmente. Infatti. Ecco, io quindi ho un passato da chitarrista e un presente e un futuro, spero ancora, da chitarrista. Chitarrista elettrico con la band rock? Chitarrista classico con il repertorio. No, infatti io gliel'ho buttata lì oggi. Novecentesco con la chitarra. E contemporaneo. E naturalmente lui ha detto di no. No. Perché bisogna prepararlo. Però fra sei mesi sappi che dovrai venire con la chitarra a suonare dal vivo a Coxo Spaziale. Sì, anche perché non lo sapevate. Se no probabilmente non sareste venuti, ma chiunque venga ospitato dal Coxo deve tornare. Non si libererete più di noi. Al contrario, no. Mio caro, al contrario. Va bene. Sì, un passato, cioè sono un chitarrista, fondamentalmente nasco come chitarrista, mi sono appassionato al mondo della chitarra classica, tra virgolette, perché quando si parla di classica o di musica classica si ha sempre un'idea di vecchio. In realtà il mondo e la musica è in continua evoluzione, insomma, quindi c'è il repertorio contemporaneo, c'è il repertorio che è ascoltabile, udibile da tutti. E non a caso, a proposito dello stereotipo che tu hai appena enunciato, noi ci siamo guardati e abbiamo detto: abbiamo due direttori di coro, cosa ci mettiamo in sottofondo? E abbiamo tirato fuori la musica classica. A casaccio, perché fra l'altro appunto la nostra radio ha un archivio. Non ne parlare, dell'archivio della nostra gloriosa radio Città Fujiko, che è sempre la nostra madre e compagna. Esatto. E Silvia? Ma io vengo invece dall'ambiente dei cori fin diciamo dalla più tenera età, perché mio padre si è sempre occupato di cori e quindi io sono cresciuta sentendo cori davvero da mane a sera, e quindi ho cominciato come cantante, come cantando io stessa in formazione da camera, poi ho studiato, mi sono diplomata in direzione di tu? Coro che voce da mezzo soprano. Beh, bello il mezzo soprano, che è anche caldo e... come timbro. Faccio un insegnante di canto anche, infatti questo nel tempo poi il mio lavoro si è sviluppato nel dirigere cori e nel insegnare canto, che sono le due attività che porto avanti. Ma se non ricordo male, parlando prima che di entrare in trasmissione, tu ci hai dato qualche informazione in più rispetto a questa eredità che ti è stata trasmessa da tuo padre. Certo, il coro Stelutis era il coro di mio babbo, che lo mise insieme con i suoi proprio amici giovanili negli anni del primissimo dopoguerra, come epigono del coro dei cori alpini, del coro della Sart, perché allora era il momento di questo tipo di musica, semplice ma affascinante, insomma, al tempo stesso. Tutti cantavano cori alpini, specialmente nell'ambiente dell'associazionismo cattolico, che era quello che lui frequentava. Poi nel tempo le cose sono così andate avanti, cresciute, e lui si è così chiesto perché non cercare se c'era del repertorio popolare, quindi con quel grado di autenticità e verità che è solo della musica popolare e non di consumo e delle volte neanche d'autore. Nel nostro territorio si disse che forse era un po' grottesco continuare a cantare in dialetto trentino o veneto, essendo di Bologna, e comunque non era soltanto quello l'ambito magari che poteva essere interessante. Si mise a cercare, facendo della ricerca sul campo, come si diceva allora, trovò moltissimo materiale, lo catalogò, perché si rese conto che nel capo di, sì, nel breve volgere di due generazioni tutto sarebbe scomparso. E poi cominciò a elaborare, a scrivere. Lui aveva studiato composizione, era diplomato in pianoforte, ne nacque questo repertorio che poi si è diffuso molto. E se non sbaglio, nella tua mistica chiavetta abbiamo anche un esempio di questa produzione. Sì, raccolta. sì. Vogliamo ascoltare? Che... Sì, va bene, volentieri, ci sono diverse cose. Puoi guardare O cara mamma. O cara mamma, va bene. Che è un canto delle mondine. Elaborato per coro da mio babbo, da Giorgio Vacchi, e qui cantato dal coro Stelutis. Il disco di qualche anno scrive fa. Soccia Fedra, che maglia che hai. Vedi? Non si è accorto che era la stessa della settimana scorsa, la mia divisa Cozzi ufficiale. E poi mi chiede se c'è la voltolina. Com'è che non hai portato la voltolina? La voltolina la porto la settimana prossima. Ah, ecco, vedi. Però noi adesso abbiamo il primo ascolto della 300ª puntata del Coxo. Eccolo qua. Yeah. quasi da far scattare l'applauso alla fine. Stefano, noi che abbiamo messo la musica di sottofondo classica, che figura meschina ci abbiamo fatto proprio. Succede. Ma senti che potenza, quindi scusatemi, questo brano quindi è un brano nato nel dopoguerra? No, questo è, probabilmente si è modificato nel tempo. I canti delle mondine sono il frutto di sovrapposizioni, di invenzioni. Quindi sono mondine. Certamente, tutte quelle ragazze, donne che per così integrare il magro introiti che avevano, partivano per la stagione della monda, che durava 40 giorni, in condizioni terribili, potremmo dire da caporalato, OGD. Era la stessa cosa, tornavano a casa con un sacco da 40 kg di riso e basta. Usti. Spesso, peraltro, con la salute pesante, provata, peraltro. Pesantissimo. Perché si sposta. Io in realtà. Cioè, 40 kg di riso adesso costerebbero 80 euro. E invece loro erano contente perché. Per loro era un guadagno impensabile in altri modi. Per tutta la famiglia. Famiglie contadine, di braccianti che non avevano nulla, per cui partivano a frotte in condizioni allucinanti e si ritrovavano insieme, erano tutte donne, e cantavano insieme come si cantava un po' nella naia, no? Ci si deve svegliare, il lavoro è duro, il sole scotta. Le zanzare pungono in italiano, perché in questo modo si capivano tutte, anche se erano vari dialetti. Infatti, un altro modo per unificare la lingua, però mi stavo chiedendo proprio questo, perché tante provenienze, forse anche tante sonorità diverse che andavano a confluire. Verissimo, trovavano questo modo di esprimersi tutte insieme. Molte hanno continuato anche da anziane dopo a cantare. Perché si parlava prima con Maurizio del fatto. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Se la Pepe ci ascolta, bisogna darle. No, comunque, noi stavamo parlando proprio di questa cosa insieme a Maurizio prima dell'inizio della puntata, e proprio di come nella natura stessa del coro e di questa tradizione ci sia proprio quasi un viaggio della voce, un viaggio del. Come ne parlavi tu prima? Che avevi usato delle parole esattamente specifiche. Un viaggio dei canti, ma perché nel mio coro, che è pure il coro, appunto il coro Consonanze, che è nato nel 2012 proprio con l'intento di studiare un repertorio che non si limitasse ai confini nazionali soltanto o anche europei, ma che facesse studio sulla musica e ricerca, e poi ovviamente con la dovuta documentazione sulla musica che viene dall'estero. E i canti si sono sempre mossi, hanno sempre viaggiato. Ed in effetti c'è una bellissima c'è un bellissimo parallelismo tra quanto ci ha appena raccontato sulle mondine, che effettivamente erano delle lavoratrici che si spostavano, adesso che l'economia è diventata globale, il parallelo è lo stesso. Sì, a tal proposito c'è da dire che i canti per millenni la musica si è sempre spostata, però si è spostata insieme ai popoli, insieme alle persone, quindi si è spostata anche la cultura, si è spostato anche il modo di fare, il modo di cantare, quindi con un'integrazione naturale. Come nasce Consonanze, il tuo coro? Nasce proprio da questo intento, da fare in modo che ci fosse una forma di ricerca delle musiche tradizionali, si privilegia il dialetto, proprio di quello che è oltre il confine del nostro Lotticello, ma questo serve proprio per un percorso di integrazione, perché la cultura riesce ad integrarsi attraverso il canto. Tutti i popoli cantano con le stesse ritualità, con lo stesso modo, utilizzano gli stessi contenuti, tutti cantano. O cantavano, ma questo è un punto che riprenderemo più avanti. Invece un altro passaggio di similitudine è che se per cantare insieme le mondine usavano l'italiano, quindi snaturavano un po' la loro espressività di partenza, e noi invece adesso che siamo in una fase più archeologica andiamo a recuperare il dialetto. Sì, diciamo andiamo a recuperare un dialetto perché il dialetto è anche di per sé ricco di suoni. A suoni che le lingue ufficiali non hanno. Ah, questo è vero, è proprio vero, ciò. E quindi ha tutta una sorta di sfaccettature di suono all'interno della lingua stessa. E quindi è importante, questa è una forma di integrazione importantissima, ma una nota polemica è sul fatto che negli ultimi decenni non c'è più lo spostamento dei popoli con i canti, si sposta soltanto il canto, si sposta dal signor Mercato. E quindi finiamo in un certo senso per condividere e spesso riconoscerci in culture che non sono nostre, però molto spesso le enfatizziamo, le mitizziamo anche. Potresti specificare un po' meglio? Beh, faccio un esempio molto semplice. Negli ultimi, se divento polemico me lo dite e mi fermate. Ah, ma a noi piace, a noi piace. Un esempio molto semplice. Noi, diciamo, noi occidentali, noi italiani, ecco, prendiamo questo. Utilizziamo molta di quella che è la musica che viene d'oltreoceano o comunque d'oltremanica, e che sono prodotti già belli confezionati. Molto spesso ci riconosciamo, no, nell'idea del blues, in quanto è importante, nel jazz, però andiamo a molto spesso a troncare quelle che sono le radici dei canti di lavoro della nostra cultura, no? E quindi questo può essere un bene da una parte, il fatto di aprirsi, però è un male dall'altra, perché andiamo a castrare quella che è un'evoluzione culturale che altrimenti si potrebbe evolvere. Quando si parla di ricerca di canti, non bisogna mai pensare che si va alla ricerca di qualcosa di antico, ma si va alla ricerca di qualcosa che è pur stato, però ha voglia e intenzione di evolversi. Quindi il fare core è proprio questo, e continuare un'evoluzione genetica, antropologica di un popolo e integrarla insieme a quelli degli altri popoli. In quel caso avviene il riconoscimento tra le persone. Sì, riflettevo anche sul fatto che prima ci raccontavate di come bene o male ogni popolazione, in ogni territorio ha sempre espresso la sonorità, il coro, l'unirsi come anche un momento rituale. Si parlava prima del canto degli alpini, però era un qualcosa che univa già a priori, era continuare. E questa cosa però antropologicamente quasi o culturalmente è stata persa. Perciò per questo prima mi è sfuggita la parola archeologia. Sì. Si parlava prima di una questione di rimozione culturale, forse sì. L'ipotesi che si sporgeva era che si affacciava era che forse questi canti sono radicati insieme a dei periodi in cui noi come individuo eravamo più poveri. Sì, è spesso stato così. La maggior parte delle persone hanno grandissimo interesse nella musica etnica di tutto il mondo, ma se gli vai a chiedere qual è un canto popolare della propria regione, più delle volte non lo sanno. A meno che non abbiano particolari legami personali con certi posti, con certe situazioni, con certi mestieri. E quindi c'è proprio un distacco totale, perché la vita è cambiata. Buffissima sta cosa, che effettivamente io ieri per caso mi sono incontrata con degli amici e mi sono trovata al parchetto ad agitare una cosa che faceva e a imparare dei cori africani, certo. di un'isola sulle coste del Madagascar, quando mai e poi mai avrei cantato. E io che sono veneta devo dire che l'unica canzone che posso, di cui posso sapere una frase e che immagino quando mi chiedono è il numero delle osterie, che è estremamente volgare, e forse anche l'Oselin della Comare, che ci sarà sicuramente la variante anche romagnola. Sì, effettivamente l'Oselin della Comare, ci abbiamo la nostra versione evidentemente. Ah, okay. No, me la ricordavo cantata da Cocchi e Renato. Quindi sì. Forse è da lì che arriva. No. Cocchi e Renato l'hanno sicuramente ripresa, come anche La Bella la Valfosso, che anche quella è lombarda. No, ma sono di quei plot, diciamo, che possono essere riempiti con qualunque cosa, e loro l'hanno fatto da par loro, ecco. Però è sempre stato fatto in qualche modo. C'è una trama, delle volte una labile melodia, e poi si cambiano le parole, si aggiusta, si adatta. È successo anche durante la Resistenza. Le canzoni dei partigiani, ce ne abbiamo alcune proprio qui locali, erano canzoni preesistenti a cui i partigiani hanno cambiato il testo. Sì signori, sì sì. Da Bella Ciao, che era un canto di Mondine. Ma dai, sì signori, ma renditi conto. Lo sapevi, Stefano? Sapevo che sta questa cosa di cambiare i testi, ma non sapevo che Bella Ciao addirittura lo fosse. Bella Ciao, il più noto canto popolare italiano, che ancora era un canto di Mondine adesso. Certo, sì sì, è carichissimo di significati, però era un canto di Mondine, sì, perché è stato fatto proprio da serviva per altre cose, no? Perché il canto popolare viene fatto proprio da chi decide di usarlo. Non è un canto d'autore, non ha la SIAE, no? Mi piace questa cosa del servire. In realtà c'è l'AMA, questo è un altro discorso. L'elaborazione, ma se no è pubblico dominio. Sì, per... la musica, ritornando a quello che si diceva prima, la musica serve e serviva, ma e serve tuttora. Faccio l'esempio riguardo a quelli che sono i canti che si spostano e a che cosa serviva la musica. La musica serviva a tutto, serviva alla mamma per tranquillizzare il bambino, ma per tranquillizzare anche se stessa nel momento dell'allattamento, per farlo addormentare. Così come serviva, aveva uno sfondo psicologico, le prefiche cantavano durante le veglie funebri proprio per superare, per far superare alle famiglie il dramma dell'abbandono, della morte. Quindi il canto ha tuttora una connotazione che serve, cioè fa parte di un rituale, e tutti i rituali hanno in comune con tutti i popoli dei contenuti molto simili, sia dal punto di vista melodico che dal punto di vista del testo. Il canto dell'abbandono, il canto della partenza, il canto d'amore si riconosce anche se non si capisce bene la lingua, in un certo senso. Quindi il canto serve. E quello che facciamo io e la Silvia è proprio quello, cercare di recuperare e far partecipare in maniera attiva le persone per esprimersi. E adesso, prima delle gloriose pubblicità delle 7:30, una domanda secca che mi barluccicava qui nei pensieri, ma c'entra qualcosa col coro della tragedia greca? Sì. Secca, andiamo, via. Vaga scaletta. Vuoi sentire i sapori e i profumi di una volta? Vuoi scegliere tra i... Ma che bello il 300° Coxo! Grazie Stefano di questi meravigliosi ospiti e grazie a Irena che ti ha fatto entrare un po' nel mondo dei cori. Dei cori. Sì. Giusto, hai ragione. Ringraziamolo. Questo 300° Coxo, oltre che di questi mega galattici ospiti, si fregia anche di lui, sempre lui che si conferma e continua. L'angolo della menzione. Poteva mancare? Non poteva mancare. No, vai. Vado io? Vai. Venerdì alle... non mi ricordo più. Ah no, venerdì 21 febbraio alle ore 15:30 c'è la presentazione del progetto e a seguire la proiezione del film Wandering by Jizu di Sabrina Muzzi. Wandering by Jizu è un viaggio immersivo all'interno della realtà quotidiana di Bai Jizu, il più grande villaggio e vivace villaggio urbano cinese di Shenzhen, raccontato attraverso l'esperienza di un mese vissuta dall'artista all'interno del villaggio. Il progetto ha coinvolto la comunità del luogo, culminando nella realizzazione di un film. Questo è al Dams Lab Auditorium in piazzetta Pasolini 5B a Bologna venerdì. Sei scivolata col mouse. E poi inoltre io volevo menzionare che è l'ultima... cosa fai? Mi interrompi? Sì. È l'ultima settimana disponibile per vedere la fantastica mostra di Luciano De Vita in Pinacoteca Nazionale a Bologna. E siccome è una mostra meravigliosa e io volevo invitare la curatrice, ma la mostra è finita, per cui non abbiamo più tempo di invitarla, e vi invito io a voi ad andare appunto fino entro il 31 febbraio, dal martedì alla domenica alle 8:30 alle 19:30 in Pinacoteca Nazionale. La mostra è ingresso gratuito. Luciano De Vita era un pittore molto potente. Basta, però noi continuiamo con la musica e intanto ti metto su questo brano qui che ne parliamo dopo. Dici? Sì. Ok. Yeah. Hai capito. Il 300° Cox, per chi si fosse connesso più tardi delle 7:08, ha come super mega galattici ospiti Maurizio Mancini e Silvia Vacchi, due direttori di coro che sono qui per parlarci di tutta la ricchezza che sta dietro questo tipo di canto. E nella prima parte, insomma, vi invito a riascoltare su www.coxospaziale.blogspot.com, perché sono tanti spunti estremamente interessati. Stasera. E invece questo brano appena ascoltato, che erano solo voci, è Maurizio Mancini. Sì. Che cos'è? Ce ne parli? Sì, si intitola Ishinedit, in lingua arbresh. E... come se sapessimo che cos'è, no? Certo, sì. Abbozza, Pasquini, abbozza. Ma che abbozza? È una lingua, è una cultura, è una comunità che è tuttora vivente e che viene parlata, viene comunque vissuta in una trentina di comuni dell'Italia meridionale, a partire dall'Abruzzo fino alla Sicilia. Sono una trentina di comuni che hanno questa cultura, ed è una cultura abbastanza antica, in quanto sono i vecchi albanesi venuti non con la nave del 92, ma bensì tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Giusti! E come li hai trovati? Beh, li ho trovati perché... Bene, li saluto! Beh sì, c'avevano queste belle boccione, eh? No, vabbè, il coro no, il coro è questa è un'elaborazione, ma poi il coro è consonante. È il tuo coro. È il mio, no? Quanti elementi sono? Il mio coro sono siamo una ventina, 25, ma siamo circa 20 e con l'influenza arriviamo a 15 in questi giorni. Ok, non, sì, va bene, sono un po' di scalculica, avevo capito cose turpi. E quindi sì, no, tornando agli Arbresh, sono appunto questa comunità che ha mantenuto ancora questa lingua, questa cultura. Ma tipo, perché ci hai raccontato che nel 2012 Consonanze, il coro con cui lavori, sì, di cui abbiamo ascoltato questo, sì, brano, nasce con l'intento di recuperare ed unire queste sonorità che viaggiano insieme ai popoli. Quindi mi immagino che magari sia arrivato qualcuno appartenente a questa cultura e abbia proposto. No, devo svelare. Sveliamo. Che io vengo proprio da un paesino di una minoranza linguistica che è appunto Arbresh. Ah beh, allora quindi il mio coro, la mia cultura. La mia cultura, sì, la mia elaborazione. No, c'è anche da dire che questo era un live, non abbiamo ancora fatto un CD, quindi di tutte le registrazioni anche che sono riuscito a rintracciare, che erano appunto presentabili, questo è uno di quelli. Ma mi serve anche per parlare dell'integrazione, perché uh-huh, questo è un brano che inizialmente parla di un nibbio, ecco, di un rapace, che è quella che tuttora abbiamo nella bandiera albanese, che veniva da lontano e andava a cercare questa comunità che ha subito la diaspora, insomma, perché è stata mandata via dagli ottomani e si è rifugiata in questi paesini dell'Italia dell'epoca, insomma, ecco. E quindi ha subito questo momento. Nella prima parte si parla appunto di questa diaspora, dove si vede questo rapace che ritorna a salutare le genti autoctone, e nella seconda parte invece, che come avete sentito è più movimentata, si parla d'amore. Quindi questo denota che un popolo si è integrato in un determinato territorio, perché altrimenti non si parlerebbe di amore. Come mai? Perché non si parlerebbe? Perché questo è l'indice? Perché l'amore è ciò che si integra. Quando nasce l'amore per una terra, vuol dire che ci si sente di quella terra. Mi sto emozionando. Dice Giffo: oh, Mancini era al conservatorio con Giancarlo Bianchetti. Ah, è andato a stalkerare? È andato a stalkerare. Bravo, sempre così, Giffo. Il nostro unico ascoltatore, chitarrista anche lui, Giancarlo Bianchetti. Un saluto, Giancarlo. Ci stalkerà un pochino anche la nostra Silvia Vacchi? Ecco, vacci a stalkerare anche Silvia Vacchi, così ci racconti che cosa ne pensi, Giffo. Il nostro unico ascoltatore fa ste cose qua. Io avevo avuto un sacco di possibili intuizioni per riprendere e rilanciare altri discorsi, ma dopo questa cosa dell'amore mi sono tutta un pochino confusa. E dunque stavo pensando. Sì. Stavo pensando, forse riusciamo a fare qualche altro. Abbiamo altri brani dei nostri, certo, dei nostri maestri di coro. Perché io, è l'altro io modo. Oggi sono stato a Vergato, per esempio, e sono passato davanti al Sasso e mi sono ricordato del coro del Sasso. Si chiama coro. Coro del... accanto al Sasso. Accanto, guarda, al Sasso. Ho una traccia bellissima che si intitola La guerriera, giusto? Arrivo, arrivo. La andiamo subito così. Andiamo accanto al Sasso a sentire La guerriera. Esatto. E comporre per i cori, componete per i cori. Sì, qualcosa sì. Sì, qualcosa sì. Il brano che avete sentito non è mio, è stato elaborato. Questo è tratto proprio dall'unico disco che è stato inciso già un po' di anni fa dal coro a Canta il Sasso. E questa era un'elaborazione di Alessandro Buggiani, di un canto che appunto si intitola La guerriera, alpino, ma che ha una storia che ha davvero viaggiato il mondo. Io qualcosa ho composto, ma anche se ho cominciato da poco, perché avendo un padre che ha composto per coro ad altissimi livelli, francamente avevo un po' di ansia da prestazione. E ho cominciato però da qualche anno, ho provato a comporre anch'io, a elaborare soprattutto melodie popolari per coro. E su quali temi ti sei concentrata? Ma un sacco di volte mi è capitato in realtà di cominciare un lavoro perché ce n'era bisogno, quindi un'occasione particolare, qualche spunto che emergeva dalla situazione, dagli impegni che il coro prendeva, e per cui ho cercato di dare seguito, che so, ai ricordi di un'anziana signora di Sasso che ci ha lasciato tutto il suo archivio sonoro, per esempio. E allora, quando lei ha compiuto 100 anni, wow, e ho pensato che forse era giunto il momento di elaborare qualcosa dei suoi ricordi, e l'ho fatto. E un canto che cominciava con le parole "O rondinella stella", è un canto romantico, insomma. Però è capitato anche di incidere altre cose, di elaborare altre cose anche per il coro Stellutis. Allora facciamo un attimo un passettino indietro. Parliamo dei vostri cori. Sì. Quindi una breve presentazione per ciascuno e magari un saluto dei componenti, poi non lo so. E così, giusto per. Partiamo con Silvia Vacchi, che stavi parlando già tu. Stavo parlando del coro Canta il Sasso, che io dirigo da, oddio, più di una ventina d'anni a Sasso Marconi. Ma che hai cominciato quando ne avevi 12? No, è che sono all'asilo. Sono una finta giovane, quindi sono un sacco d'anni. E no, ho cominciato appunto davvero più di 20 anni fa. Il coro è un coro misto con il quale facciamo sia canto popolare sia anche altre cose, anche canto sacro, e con il quale abbiamo fatto davvero tante cose, tanta strada, organizziamo rassegne, eccetera. L'altro coro è invece il coro Stellutis di Bologna, è un coro che è nato nel 47. Ancora prima. E lo ha fondato mio padre, appunto, come si diceva prima, quando era ragazzo, e ha avuto una storia e un ruolo piuttosto importante nella coralità italiana, lanciando un po' e portando alla ribalta il repertorio emiliano-romagnolo, frutto di ricerca etnomusicologica, quello che mio padre poi ha portato. A tuo padre andava avanti. Anche in giro col registratore, sì, a registrare, signori, una sorta di Lomax. E lui sì, ha fatto proprio questo lavoro in primissima persona. Fantastico. Cominciò all'inizio, le primissime cose che ha fatto le fece con Francesco Guccini, che era suo buon amico. Ah, ma dai. E poi ha continuato per conto suo, ma soprattutto è riuscito a contagiare altri maestri di coro che nel proprio territorio hanno cominciato a fare questo lavoro, perché non è facile andare da una vecchietta sconosciuta e carpirne la fiducia e farla cantare. Che bella, se sei il professore che viene da Bologna è difficile che ti canti qualcosa, ma se sei, che so, storia vera, il segretario comunale del paese, questo è avvenuto a Gaggio Montano, paese in cui il segretario comunale dirigeva un coro e ha registrato qualcosa come 1500 canti. Wow. Sì, signori. Trascrivendoli, perché era anche un musicista, aveva fatto il seminario, quindi sapeva scrivere la musica, e lui ha fatto un lavoro colossale, colossale, ecco. Dopo poi ha elaborato e ha composto, ma il lavoro a cui lui credeva fosse più importante dal punto di vista scientifico era proprio quello della raccolta, della ricerca e della catalogazione. E questi archivi adesso dove sono? L'archivio lo puoi trovare, a parte che è depositato ai beni culturali, ma è sul nostro sito, quello del Coro Stellutis. Ah. E puoi consultarlo liberamente, basta che tu ti registri. Ah, fantastico. E ci sono le tracce audio, le trascrizioni e la musica scritta. E da domani su www.coscospaziale.blogspot.com il link per raggiungere il sito e l'archivio. Ma perché si chiama Stellutis? Perché è nato come un coro alpino e quindi tutti volevano cantare canti alpini. Stellutis Alpinis è il titolo di un famosissimo brano friulano, proprio in lingua friulana, d'autore, a dir la verità, non popolare, ma è un simbolo e una bandiera per tanti cori alpini. E mio padre lo ammirava molto e anzi addirittura si prese l'ardire di elaborarlo. Anche se era famosissimo già in un'altra versione, quindi è stato uno dei primi che ha elaborato e dopo è rimasto il nome del coro Stellutis anche quando si è cambiato totalmente il repertorio. Grazie. Prego. Maurizio. Anche l'altro giorno ho visto che la BBC ha messo online tutti i suoi effetti sonori tipo dagli anni 50 in poi e c'è un archivio incredibile adesso. Sì. Li useremo insieme a Google Translate nel esatto. Coxo? Saranno tipo, puntate senti, grandiose. Senti. Eh no, però aspetta un attimo che devo fare il mix con una mano sola, faccio un po' fatica, aspetta. Senti un po' questo qua, tipo, che ne so. No, non si sente. Vogliamo che intanto continuo con Maurizio e poi dopo il brano ci fai questa bella sorpresa dei cori. No, ma non si... Vabbè, no, questo era il classico vuoto coxico che in ogni che esatto. Contraddistingue la struttura di ogni puntata del Coxo è capitato in questo momento. Ecco perché, senti. Ecco. In table, coin in slot, ball round three times with bells, flippers and buzzes. Mi questo piace il piacerebbe, questo piacerebbe a Federico Croce. Che dobbiamo invitare. Dobbiamo invitare. Federico, preparati. Ok, finita. Bene. Possiamo andare avanti. Maurizio, torniamo a noi. Adesso io vorrei proporre un secondo ascolto dalla tua cartellina. Che però non c'è. Sì che c'è. Come c'è? Ah no, è vero. C'è. Io gli ho imposto di portare musica che lo appassionasse. Ho qualcosa anche del repertorio, son cose live, quindi non dobbiamo fare attenzione agli errori. Ecco, per esempio ci dovrebbe essere Dalmazia, sì. Sì. Ok, andiamo. Bella mare moia civi, bella mare moia civi, bella mare moia. Dalmazia. Ma che è un canto di quelle parti? No, il pensiero che mi veniva era proprio che ad ogni canzone si viaggia, ci si sposta per poi ritrovarsi anche proprio a casa in qualche modo. Sì, ed è un canto appunto che, ecco, questi sono più canti messi insieme, elaborati appunto, perché poi quando si fa un'elaborazione rispetto a quello che si diceva prima, quando si scrive per il coro, si scrive per il proprio coro, per le proprie voci, perché si è in testa ben chiari quali sono le sonorità, le voci, i timbri che si creano, le armonie, e quindi poi alla fine si lavora sulla base di ciò che si ha. E questo è un insieme di più canti che fanno parte appunto della tradizione della Dalmazia, e che parlano comunque, tutti hanno il tema del mare. Il tema del mare, che poi è la strada che per millenni ha fatto incontrare e incrociare popoli, e quindi di conseguenza anche le culture e i canti. Posso dire anch'io chi è il mio coro? Certo. Tra l'altro sono loro che stanno cantando adesso. Sono loro che stanno cantando, sì. Ti stiamo ascoltando, diccelo. Sì. Allora, si chiama Consonanze, Coro Consonanze. Nato nel 2012, è nato per volontà mia e di qualche altro elemento, tra l'altro di una ragazza del Bangladesh, che con l'intento appunto di fare unire un po' le culture. Da allora ci incontriamo tutte le sere, il giovedì alle ore 21, quindi chi vuole può venire a cantare da noi. E da domani su www.coxospaziale.blogspot.com anche il link di Consonanze. Certo, perfetto. Assolutamente. Sì, certo. Che fra l'altro abbiamo avuto in trasmissione, non so, tu non c'eri quella volta. Non ci stavo, mi hai detto di stare a casa, gravate in troppi. Infatti le abbiamo schiacciate tutti qui dentro, però è stato divertente, no? Immagino. Le hai fatti cantare? Hanno cantato? Certo. Sì, basta andare su www.coxsbagliati.com e cercare sul Consonanza cerca. E si trova. Un paio d'anni fa, ma noi vogliamo anche tornare. No, ma infatti, anzi, in realtà dovevano tornare l'anno scorso, poi non ho capito cosa è successo, che non sono tornato, forse è partita l'estate e sono andati tutti in vacanza. Quasi quasi. Che ha anche il suo perché. E comunque questa è la prova, mia cara Silvia, che chi viene al Cox una volta poi ci ritorna. Esatto. Perciò preparati. No, Silvia, te. Tu sarai chiamata con entrambi i cori qui dentro, tutti e tre. Non ci stiamo, il coro Stellutis è più di 50 elementi. Ma facciamo a gruppetti di 5. Siamo veramente faticati a stare. L'altro coro invece forse ci può stare, opportunamente compresso. Sì. Quello del sasso? Zippato, quello sì. Del sasso, sì. Quello può darsi che ci stia. Ma perché del sasso? È perché sono del sasso. Sede a Sasso Marconi. Io andrò a vivere lì. Davvero? Ma ora allora vieni a cantare con noi. Una breve, insomma, audizione, verifichiamo subito. Sì, l'audizione. Allora ci vado. Piace essere coxata. Che cosa deve fare? Fammi un fa bemolle. Non esiste. Il fa bemolle è il mi. Vero? Brava. Beh, ecco, già questo è, hai già preso un bel punto. Grazie. Ma no, cosa volevo dire? Volevo dire che una cosa prima sulla sonorità, mi perdo tutti i ganci qua, è troppo scoppiettante questa puntata. Volevo giungere a parlare, le sonorità, esprimere, insomma, la vocalità e i benefici della vocalità e il benessere. Cantare fa anche bene, a parte la questione culturale, l'impegno, certo, la tradizione, sì. La musica, sì, no dicevo, e comunque fa addormentare i bambini, che è fondamentale. Che quello fa molto bene alla coppia. Fa molto bene ai genitori quando i bambini sono piccoli. Beh, non solo, la musica fa bene, perché la musica di per sé è benefica, cioè è benefica perché è una vibrazione, è armonia. La parola armonia è stata un po' rubata dalla musica, ma viene appunto dal fatto di stare bene insieme. La parola stessa accordo, un coro è polifonico, non fa un solo suono, fa più suoni, e quindi mette in accordo, non è un accordo soltanto dal punto di vista della grammatica musicale, ma è un accordo e un'armonia che è relazionale, si creano appunto queste vibrazioni che creano onde sonore, ma nello stesso tempo creano anche relazioni tra le persone. Non dimentichiamo che la musica ultimamente è stata molto molto studiata dal punto di vista della musicoterapia, ma anche e soprattutto di quella che è la relazione sociale, di quanto fa bene alla società, alla comunità. il fare musica. E adesso io la sparo, che mi faccio anche un po' paura da sola, ma sparala, dai. Questa cosa, le sonorità, le vibrazioni che si producono, mi pare di ricordare che da qualche parte avevo sentito da amici buddisti che certi monaci curavano proprio con l'emissione di suoni. Certo. E forse anche che ciascuna cultura produce le proprie sonorità, ad esempio delle sonorità, le sonorità della lingua cinese sono completamente diverse e veicolano diversamente risonanze all'interno del corpo rispetto alla nostra, che è diversa. Sì, diciamo che noi non abbiamo forse avuto una medicina che ha teorizzato questo, ma in realtà lo abbiamo sempre fatto e lo dobbiamo continuare a fare. E a ragion di ciò dobbiamo fare in modo di continuare a fare questo tipo di ricerca sulle vocalità e sulla basta pensare ad esempio a quello che è il sistema temperato. Il sistema temperato, adesso non so se c'è abbastanza temperato è una razionalizzazione, regolazione delle vibrazioni per fare in modo che tutto stia dentro. Con il coro, con la voce, questo non è del tutto possibile, per quello che molto spesso si sente dire ah ma quel coro cala, quel coro invece un po' strano, perché in realtà sì, noi portiamo alta la bandiera su questo. E perché esistono i quarti di tono, i sedicesimi di tono, che adesso non vengono più considerati ma fanno parte della vocalità, sono dentro il modo di cantare, però creano anche timbro, questo va a creare anche una forma di armonia che magari scolasticamente, accademicamente può essere additata, però da un punto di vista comunicativo forse è molto più incisivo. Da un punto di vista sociale io sono rimasta, è fondamentale e poi molto importante che si provi a cantare per davvero, perché l'orecchio moderno è spesso legato a sonorità che non sono riproducibili. Quello che si sente nella musica di consumo è qualcosa che tu non puoi riprodurre neanche suonando con gli amici. Ah, famosa musica elettronica. Ma comunque anche se è musica cantata per davvero, veramente effettata, rimaneggiata, per cui si rischia davvero una sorta di frustrazione perenne. Wow. Se ti basi su questo tipo di ascolto, la musica cantata davvero in prima persona è qualcosa di differente ed è a mio parere estremamente importante fare musica concretamente per non prima parlare persona. Della prossimità di altre vocalità, certo, e queste vibrazioni di altre persone in carne ed ossa. Ragazzi, comunque io ce lo vedo un ritorno alla verità, allora sta diventando Stefano, di moda. Maurizio, Silvia, mi dispiace, segnatevi l'agenda, adesso incrociamo i palinsesti, dobbiamo ritrovarci presto perché ci sono troppe cose che si sono aperte e troppe cose che vanno sviluppate ulteriormente. Ce lo promettete, vero? Parliamo. Ricattali e trascinali qui di nuovo, Stefano, mi raccomando. Perché purtroppo la trecentesima puntata di Corso Spaziale è finita. No! E poi Maurizio dovrà tornare con la chitarra stavolta. E la Silvia la facciamo tornare col sasso? No, noi la facciamo cantare, gli facciamo preparare un pezzo per voce e chitarra. Oh, e noi facciamo il coro. Fantastico. Va bene, io il brano finale non ce l'ho, lo metto a caso o cosa? Mettilo a caso o cosa? Però non ho il direttore che ci fa il nostro basso livello di radiofonia, ce l'hai tu? Però aspetta al volo. Perché sai com'è? Intanto che io scelgo il brano così a caso. Tu stai scegliendo il brano a caso? Sì, pensavo a questo qui che è un nostro amico e che potrebbe. E che siccome è anche amico di Lolli, che ci verrà a trovare molto presto, potrebbe essere. Hai capito di chi sto parlando? Non ho capito di questo di chi stai parlando, ma io posso dire questo. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Ciao carissimi ospiti, e ci vediamo lunedì prossimo. Molto vediamo. Ci vediamo benissimo lunedì prossimo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie mille, ciao. buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero.